viviamo negli echi cantici che la bellezza infiora e là fuggevo la sideria voluta liviar nei dolci freniti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore ogni possente Thank you. Scordo le gaudi suoi

fu ferito, però migliora. Alfredo è in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. E a voi tornerà il suo perdono. Io curverò. Curatevi, portate un avvenir migliore. Giorgio Germò. Ma il dottore aspera Thank you. spasimi del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolita del cuore. Ah, ma io... 电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有限调频。 欢迎继续收听歌舞剧场。刚才我们听到的是威尔第的歌剧《茶花女》当中的精彩选曲。下面让我们分享几首经典的芭蕾舞音乐。亚当的芭蕾舞剧《四魔鬼》当中的选曲，由理查德·布宁格指挥伦敦交响乐团演奏。 Thank you.